Cosa è andato a scomodare la nostra Paola Saoncella con la pietra di Bismantova? La pietra di Bismantova è questa formazione rocciosa che vi è tra il territorio di Castelnuovo dei Monti, proprio in cima all'Appennino Reggiano, nel passo del Cerreto. Una conformazione stranissima che tra l'altro si dice protagonista di tanti suicidi, di ragazzi che si ritrovano proprio all'apice di questo fronte, un frontone che dà strapiombo nel vuoto e purtroppo nefasto, per quanto affascinante, protagonista di tanti suicidi. Si tratta di questo, Paola, no? Della zona che ho citato in precedenza, e soprattutto non è certamente uno il caso di suicidio di termine vita, per quanto riguarda soprattutto persone giovani che vanno lì. È un posto un po' misterioso, stregato, la pietra di Bismantova. Sì, infatti ci sono, e credo anche che da tante leggende, comunque da tante storie legate a questa formazione molto particolare, Patrick abbia tratto anche ispirazione per il suo libro. Infatti poi la pietra avrà un ruolo all'interno del romanzo piuttosto importante, insomma è un libro che, pur essendo, come dicevo, molto attuale, si richiama a leggende antiche, a credenze, comunque infatti, a storie ancestrali. Questo è sicuramente un'ambientazione veramente inquietante e adeguata alla storia. Sì, io uomo di pianura che conosco anche un po' queste colline, vedi, non sono poi solo limitato al mio Polesine, vedi? È così, insomma. Presentazione allora, questa sera a che ora in Biblion? E allora, stasera in Biblion, via San Donato 107 barra B, a Granarolo, la sai meglio di me, l'indirizzo della libreria. Lo dico sempre. Aspetteremo alle 21 appunto Patrick Fogli. Questa sera lo intervisterò io, perché Patrick, oltre che un bravissimo scrittore, è anche un amico e conosco piuttosto bene la sua opera. Avremo le letture di Alessandro Dall'Oglio, che anche lui è un grande amico della Biblion, quindi insomma speriamo di fare una serata di approfondimento che sia piacevole per tutti. Certo, anche William e Carlotta e Radio Città Fujiko sono amici della Biblion, per cui la grande famiglia si estende esatto, Granarolo dell'Emilia. Beh, libreria Biblion, magari protagonista già dalla prossima puntata con le novità del 2018, che in presentazione live sono partite già con questo libro di Patrick Fogli. Che dire, noi ti ringraziamo tantissimo per la partecipazione, ti diamo appuntamento in studio e ti auguriamo buona giornata. Grazie mille a voi. E alla prossima. Ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Volevo dare un consiglio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ovvero, oltre ovviamente a leggere il libro di Daniel Tarnopolsky per appunto conoscere meglio la storia dell'Argentina, no, in quegli anni, potete anche vedere un film che vi consiglio, che si chiama La morte e la fanciulla di Roman Polanski del 94, che lui è un ottimo, ottimo regista, quindi ve lo consiglio. È uno dei numeri uno, dei giganti. Esatto, il film parla proprio dei desaparecidos, dell'Argentina, della guerra sporca, quindi se avete voglia. Sì. Certo, e poi ricordo l'appuntamento di questa sera alla Biblion, in via 106, in via San Donato 106A a Granarolo dell'Emilia, non mi sbaglio mai a dire questo indirizzo, a parte quando sono a termine della nostra puntata, della nostra prima colazione, dove tutte le informazioni vanno un po' a sommarsi, no? Come, ad esempio, il titolo dell'Edipeo enciclopedico: Aghi antipiccioni sugli alberi a Bristol. Non è bello, eh? Noi siamo amanti degli animali, ma ci pensi, neanche sugli alberi si possono appoggiare i piccioni. Non possono fare più nulla ormai gli animali. Io capisco magari che col guano rovinano le statue, con i monumenti, che non è bello avere i balconi sporchi, per carità, però gli alberi, dai, gli alberi, insomma, i piccioni. Vabbè, comunque sentiamo il nostro Edipeo con questo titolo non esattamente animalista. Beh, noi poi torniamo domani per quanto riguarda la prima colazione in diretta con Valeria Sacco. Vi date il cambio per quanto riguarda sì, l'arte, il cambio della questa guardia. Questa settimana sì, parleremo del mito Raffaello. Io ricordo pure che potete seguirci tramite le nostre pagine social, quindi Facebook, Instagram, il sito anche della radio, e a brevissimo metteremo il podcast di questa mattina. Te lo volevo giusto chiudere, allora lo fai sì. Chiedere, no? oggi sbaglio tutto. Te lo volevo giusto chiedere, quindi il podcast. Certo, certo, assolutamente. Grande, l'appuntamento a domani con la prima colazione, l'Edipeo tra pochissimo, poi rassegna stampa all'interno Radio Zanardi, condotta da Alfredo Pasquali, che inizia con Radio Bullet 10.30, 12.30, diretta esterna dal Caffè Belmeloro. Avremo poi il GR e il Last Minute condotto da Ariele Di Mario, e facciamo gli auguri di pronta guarigione momentaneamente nella injured list alla nostra Ilaria Santucci. Allora magari conosci Paola Saoncella alla prossima diretta del Voltiamo Pagina. Ovvio. Ci sei? Sì, bene, ci sono. Bene, perfetto, ci siamo anche per la rivincita delle bionde, di cui io mi sento, se vogliamo, partecipe, pur non essendo né biondo e neanche poi così meritorio di una rivincita. Però lo possiamo ascoltare questo format tutti i lunedì dalle 13 alle 13.30. E seguite anche le nostre pagine, anche per la rivincita. E non solo Carlotta, ma anche Erika Verdecchia. 8.50 minuti, un po' di musica. Ci sentiamo domani per la prima colazione in diretta, il Breakfast Club in mostra il mito Raffaello con Valeria Sacco nella nostra rubrica A Regola d'Arte. Per oggi una buona giornata e un buon ascolto sulle nostre frequenze da Carlotta Calarese e William Piana. Ciao. I'm the one that's on the right, and the time is right now, yeah. No.